Terzo Anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alba Rohrwacher legge Il Mago di Oz di Frank Baum. Traduzione di Sara Sollors. Ci volle un po' di tempo prima che il leone si svegliasse, perché era stato a lungo sdraiato tra i papaveri, respirando il loro aroma letale. Ma quando aprì finalmente gli occhi e scese dal carro, fu molto felice di essere ancora vivo. «Ho corso il più velocemente possibile», disse, sedendosi e sbadigliando, «ma il profumo di quei fiori era troppo forte per me. Come avete fatto a tirarmi fuori?» Allora gli raccontarono dei topi di campagna e di come l'avevano generosamente salvato dalla morte. E il leone Fifone rise e disse: «Mi sono sempre considerato molto grande e terribile, eppure delle cose piccoline come i fiori mi hanno quasi ucciso, e degli animaletti piccini come i topi mi hanno salvato la vita. Ma guarda come va il mondo! Ma, compagni, adesso cosa facciamo?» «Dobbiamo continuare il viaggio finché non ritroviamo la strada di mattoni gialli», disse Dorothy, «e una volta ritrovatala possiamo andare alla città smeralda». Quindi, con il leone nel pieno delle forze e ritornato in sé, ricominciarono il viaggio, più che felici di camminare sull'erba morbida e fresca. E dopo poco raggiunsero la strada di mattoni gialli e si avviarono nuovamente verso la città smeralda, dove si trovava il grande Oz. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? La strada era liscia e bella stricata adesso, e la campagna lì attorno molto bella. Ai viaggiatori non parve vero di essersi lasciati alle spalle la foresta buia, e con essa tutti i pericoli che avevano incontrato nella sua oscurità. Videro di nuovo gli steccati ai lati della strada, ma questi qui erano dipinti di verde, e quando giunsero a una casetta, in cui chiaramente abitava un fattore, quella pure era dipinta di verde. Passarono davanti a parecchie di queste case nel pomeriggio, e a volte delle persone comparivano sulla porta e li guardavano, come se volessero chiedere qualcosa. Ma nessuno s'avvicinava, né rivolse loro la parola, perché avevano molta paura di quel grande leone. Erano tutti vestiti di verde smeraldo e portavano cappelli a punta come quelli degli ignami. «Questo deve essere il paese di Oz», disse Dorothy, «e ci stiamo sicuramente avvicinando alla città smeralda». «Sì», rispose lo spaventapasseri, «qua tutto è verde, mentre nella terra degli ignami il blu era il colore prediletto. Ma non sembrano amichevoli come gli ignami, e temo che non troveremo un posto dove passare la notte». «Io vorrei mangiare qualcosa che non fosse frutta», disse la ragazzina, «e sono sicura che Toto sta morendo di fame. Fermiamoci alla prossima casa e parliamo con chi ci abita». Quindi, quando giunsero a una fattoria grandina, Dorothy si avvicinò al portone e bussò. Una donna aprì la porta quanto bastava per vedere fuori e disse: «Cosa vuoi, bambina? E perché c'è quel leone così grande con te?» «Vorremmo dormire a casa sua, se fosse possibile», rispose Dorothy. «Il leone è mio amico e compagno, non le farebbe mai del male». «È addomesticato?» domandò la donna, aprendo ancora un po' la porta. «Oh sì», disse la ragazzina, «ed è anche un gran fifone, quindi avrà più paura lui di lei che lei di lui». «Beh», disse la donna dopo averci pensato su e aver lanciato un'altr'occhiata furtiva al leone, «se le cose stanno così entrate pure, vi darò da cenare e un posto dove dormire». Allora entrarono tutti in casa, dove c'erano, oltre alla donna, due bambini e un uomo. L'uomo si era ferito alla gamba ed era sdraiato sul divano, nell'angolo. Sembravano molto sorpresi di vedere una compagnia così strana, e mentre la donna era impegnata ad apparecchiare, l'uomo chiese: «Dove state andando?» «Alla città Smeralda», disse Dorothy, «per vedere il grande Oz». «Oh, veramente?» esclamò l'uomo. «Siete sicuri che Oz vi riceverà?» «Perché non dovrebbe?» rispose lei. «Beh, si dice che Oz non riceva mai nessuno di persona. Sono stato nella città Smeralda molte volte, ed è un posto bello e meraviglioso, ma non mi è mai stato permesso di vedere il grande Oz, né ho mai sentito parlare di qualcuno che l'abbia visto». «Non esce mai?» domandò lo spaventapasseri. «Mai. Giorno dopo giorno sta seduto nella grande sala del trono nel suo palazzo, e nemmeno i suoi servitori lo vedono in faccia». «E com'è?» chiese la ragazzina. «È difficile a dirsi», disse l'uomo riflettendo. «Vedi, Oz è un grande mago e può assumere qualsiasi forma desideri, quindi alcuni dicono che sembri un uccello, altri un elefante, altri un gatto, ad altri ancora appare come una bellissima fata o un lupetto o in qualsiasi altra forma che lo compiaccia. Ma quale sia il vero Oz nell'aspetto che gli è proprio, nessun essere vivente può dirlo». «Che strano», disse Dorothy. «Ma dobbiamo tentare in un modo o nell'altro di vederlo, o avremmo fatto il nostro viaggio per nulla». «In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land «Perché desiderate vedere il terribile Oz?» chiese l'uomo. «Voglio che mi dia un cervello», disse lo spaventapasseri con fervore. «Oh, a Oz non costerebbe molto», dichiarò l'uomo. «Ha più cervello di quanto non gli serva». «E io vorrei che mi desse un cuore», disse l'uomo di latta. «Nemmeno questo gli crea problemi», continuò l'uomo, «perché ha una grossa collezione di cuori di ogni misura e foggia». «E io vorrei che mi desse del coraggio», disse il leone fifone. «Oz ha un pentolone di coraggio nella sala del trono», disse l'uomo, «coperto con un piatto d'oro per evitare che strabordi. Te ne darà volentieri un po'». «E io vorrei che mi rimandasse in Kansas», disse Dorothy. «Dov'è il Kansas?» chiese l'uomo sorpreso. «Non lo so», rispose Dorothy, contrita, «ma la mia casa è lì e sono sicura che esista da qualche parte». «Probabile. Beh, Oz può fare tutto, quindi credo che possa anche trovare il Kansas. Ma prima devi riuscire a vederlo, e sarà difficile, perché al grande mago non piace vedere nessuno e solitamente fa le cose a modo suo. E tu cosa vuoi?» continuò rivolgendosi a Toto. Toto scodinzolò, perché, stranamente, non sapeva parlare. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door. And the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green, in our yellow submarine. We all live. La donna annunciò che era pronta la cena, quindi si sedettero attorno al tavolo e Dorothy mangiò del porridge delizioso, una portata di uova strapazzate e un piatto di bel pane bianco. Il leone assaggiò il porridge, ma non gli piacque e disse che era fatto d'avena e l'avena era cibo per cavalli, non per leoni. Lo spaventapasseri e l'uomo di latta non mangiarono nulla. Toto mangiò un po' di tutto e fu felice di fare finalmente un vero pasto. Poi la donna diede un letto a Dorothy e Toto si sdraiò accanto a lei, mentre il leone faceva la guardia alla porta per evitare che venisse disturbata. Lo spaventapasseri e l'uomo di latta rimasero silenziosi, in piedi, in un angolo per tutta la notte, perché naturalmente non potevano dormire. Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. quietly turning the back door key. Stepping outside, she is free. She, we gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into a dressing gown. Picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves, is leaving, never a thought for ourselves. We struggle hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong? He's having, didn't know it was wrong. Fun is the wrong thing that money can't buy. Something inside that was always denied for so many years. She's leaving home. Bye bye. La mattina dopo, appena si fu levato il sole, si incamminarono e presto videro un chiarore verde nel cielo. «Quella deve essere la città Smeralda», disse Dorothy. Man mano che si avvicinavano, il chiarore si faceva sempre più luminoso e sembrava annunciare la fine del loro viaggio. Eppure era già pomeriggio quando arrivarono alla grande muraglia che circondava la città. Era alta, spessa e di un verde luminoso. Davanti a loro e alla fine della strada di mattoni gialli c'era un cancello enorme, decorato con degli smeraldi che luccicavano così tanto che persino gli occhi dello spaventapasseri, anche se solo dipinti, furono abbagliati dalla loro brillantezza. C'era un campanello accanto al cancello, e quando Dorothy premette il pulsante si sentì un tintinnio argentino. Il gran cancello si aprì lentamente, entrarono e si ritrovarono all'interno di una stanza alta, col soffitto ad archi, i cui muri brillavano di un'infinità di smeraldi. Davanti a loro stava un uomo della stessa taglia degli ignami, vestito tutto di verde, dalla testa ai piedi, e persino la sua pelle era verdognola. Al suo fianco uno scatolone verde. Quando vide Dorothy e i suoi compagni, l'uomo chiese: «Cosa desiderate nella città Smeralda?» «Siamo venuti per vedere il grande Oz», disse Dorothy. L'uomo fu talmente sorpreso nel sentire questa risposta che si sedette per pensarci su. «Sono passati molti anni dall'ultima volta che qualcuno mi ha domandato di vedere Oz», disse, scuotendo perplesso la testa. «Lui è potente e terribile, e se siete venuti a disturbare le sagge riflessioni del grande mago per una commissione sciocca e inutile, potrebbe arrabbiarsi e distruggervi tutti in un istante. «Ma non è una commissione inutile e nemmeno sciocca», rispose lo spaventapasseri. «È importante e ci hanno detto che Oz è un buon mago». «Lo è», disse l'uomo verde, «e regna sulla città smeralda bene e saggiamente». Ma nei confronti di coloro che non sono onesti o che lo consultano per curiosità, è assai terribile e pochi hanno osato chiedere di vederlo in faccia. Io sono il guardiano dei cancelli e, dato che chiedete di vedere il grande Oz, sono obbligato ad accompagnarvi al suo palazzo, ma prima dovete mettervi gli occhiali. «Perché?» domandò Dorothy. «Perché, se non vi mettete gli occhiali, la luminosità e la gloria della città smeralda vi accecheranno. Persino quelli che vivono in città devono portarli giorno e notte. Li portano fissati con dei lucchetti, perché Oz ordinò così appena la città fu costruita. E io ho l'unica chiave che li apra». Aprì uno scatolone, e Dorothy vide che era pieno di occhiali di ogni tipo e forma. Tutti quanti avevano lenti verdi. Il guardiano dei cancelli ne trovò un paio perfetto per Dorothy e glieli mise sugli occhi. Gli occhiali erano fissati dietro la testa da due bande d'oro e si chiudevano con una chiavetta appesa a una catenella attorno al collo del guardiano dei cancelli. Una volta messi, Dorothy non sarebbe riuscita a toglierli neanche se l'avesse voluto. Ma naturalmente non voleva rimanere accecata dalla luce della città smeralda, quindi non disse nulla. Poi mise gli occhiali allo spaventapasseri e all'uomo di latta e al leone e persino al piccolo Toto, e a tutti chiuse a chiave il lucchetto. Infine anche il guardiano dei cancelli si mise gli occhiali e disse che era pronto per portarli a palazzo. Prendendo una chiavona d'oro da un gancio sul muro, aprì un altro cancello. Lo seguirono attraverso un portale e si incamminarono per le strade della città smeralda. Alvar Horvacher ha letto Il mago di Oz di Frank Baum. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.